un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua anche oggi, primo di agosto, con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, quella che è l'economia, quella che è la politica europea, viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Un programma in collaborazione con la rete Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche in internet: euronetplus.eu, il portale del network, radio24.it, da dove poter riascoltare la puntata e trovare tutti i nostri Europost-it nella sezione L'altra Europa, oppure gli account per trovarci anche su Facebook e Twitter, Euronet Plus R24, oppure il mio personale, chiocciola Federico Taddia. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Inizia un mese particolare, è il mese delle vacanze, è il mese dei viaggi, e partiamo proprio con un viaggio. Sarah à Turin, dans certaines villes italiennes et européennes, de jeunes immigrés font office de passeurs de culture dans les quartiers où ils vivent. C'est une forme de tourisme responsable local, dont les protagonistes sont les nouveaux habitants. Leur réseau s'appelle Migrant Tour. Il est né grâce à un projet européen. Chaque passeur de culture a une histoire. È un tour molto particolare, molto contaminato, molto diverso, molto alternativo, quello che vi proponiamo oggi. È un tour che appartiene al progetto cofinanziato dall'Unione Europea, del progetto Migrant Tour. Ne parliamo con Enrico Marletto, presidente di Viaggi Solidali. Ciao Enrico, buon sabato, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, buongiorno e grazie di questo invito, bellissimo. È un altro turismo quello che proponete, raccontaci quali sono i contorni di questo progetto. Sai, la cosa carina è che mi piace descriverlo come un altro turismo, ma che è come un turismo a bassissimo impatto, direi a impatto zero, perché possiamo fare dei viaggi verso culture lontane a chilometro zero. Stando nelle nostre città, forse non ce ne rendiamo conto, ma ci sono dei nuclei di culture che arrivano da molto lontano e che sono nella porta a fianco a noi. Quello che ci manca rispetto al turismo classico sono le guide, le persone che raccontano, nel nostro caso noi li chiamiamo accompagnatori interculturali, cioè le persone che conoscono queste culture perché sono le loro. Noi abbiamo iniziato col progetto Migrant Tour, una formazione dei nuovi cittadini europei, che sono cittadini che vivono nelle nostre città ma che arrivano da culture lontane e che ci raccontano con un altro occhio la città in cui viviamo. Quindi sono passeggiate interculturali, sono tour multiculturali nella propria città. Un progetto il cui incipit è di qualche anno fa, è dal 2010 che è nata questa idea, poi adesso però questa idea si è concretizzata in questo progetto europeo. Sono diverse le città coinvolte, sono diverse le associazioni coinvolte: Oxfam Italia, AXA, CCS, Viaggi Solidali, per questa rete europea di città migranti. Città migranti è un po' questa, città migranti è città dove si può fare questo Migrant Tour e Migrant Tour. È bello il gioco, no? Perché cambia una lettera e cambia proprio la concezione. Ci sono i due aspetti, quindi un tour che è mio perché metto in gioco la mia identità, un tour dove si cammina anche nella porta a fianco, anche nelle vie a fianco, per fare viaggi lontanissimi nel tempo e nello spazio. Quali sono le città coinvolte? Allora, le città coinvolte nel progetto sono 9, 5 italiane, Torino, da cui è nata l'idea appunto nel 2010, quella che citavi tu, è una nostra mutuazione da Calvino. Abbiamo detto che se Calvino avesse dovuto forse dare il nome a questa attività, l'avrebbe forse chiamata Torino Migranda, e di lì è nata poi un format che in Italia nel progetto si è sviluppato anche a Milano, a Roma, a Firenze e a Genova. E poi a livello europeo, sempre come partner di progetto, ci sono Parigi e Marsiglia in Francia, Valencia in Spagna e Lisbona. Devo dire però che la cosa bella, forse ci tengo a sottolinearlo, che per una volta tanto questo non è un progetto che termina, si è terminato ieri, il 31 luglio si chiudeva ufficialmente, formalmente il progetto Migrant Tour. Sì. La cosa bella è che mi piace veramente che oggi, 1 agosto, stiamo parlando di questo progetto come dell'inizio di una rete, cioè il progetto ha costruito una rete. E questa rete Migrant Tour, che ha un proprio sito, appunto www.migranttour.org, ha già accolto ad esempio altre città, cioè in Italia Napoli, che non fa parte delle città del progetto, ha aderito per fare anche loro il tour su Napoli. In Francia in questi giorni sta per aderire Lione, sempre in Italia lo sta facendo Bologna. Se guardiamo bene, è un po' in tutte le città c'è questa grandissima ricchezza interculturale e possono nascere ovunque le città Migrant Tour. Con ricadute sociali e ricadute economiche anche, vero Enrico? Direi proprio di sì, sociali evidenti, perché è una forma di rendere protagonisti persone che lo sono già nella pratica, perché sono nostri concittadini, lavorano con noi, sono a fianco nostro, ma per una volta sono protagonisti anche con la propria cultura, con le proprie radici e magari combattono così anche un po' la loro saudade se sono brasiliani. Però la cosa bella è che non è solo un'attività sociale, ma è soprattutto un'attività economica, cioè le persone che accompagnano svolgono un lavoro per cui sono retribuite. I commercianti, lo immaginate, durante la passeggiata si può entrare in un Asia Market piuttosto che nei banchi del mercato di Porta Palazzo a Torino, si scoprono prodotti nuovi e poi le persone tornano, le persone magari poi acquistano e quindi diventa anche un volano economico per far conoscere magari dei negozi, dei luoghi dove senza avere qualcuno che te li presenti magari non entreresti mai da italiano in un Asia Market, però se sei entrato con la guida migrante poi magari ti viene voglia di tornarci. www.migranttour.org, scritto con la Y, questo è il sito ufficiale per conoscere il progetto. Un grazie a Enrico Marletto, presidente di Viaggi Solidali. Buona estate, ciao Enrico, buon sabato. Buona giornata anche a voi e chiudo dicendo che oggi è sabato e questa nostra proposta sarà proprio il sabato del Villaggio Globale 2.0, cioè da settembre a rotazione in tutte le città italiane ci sarà un Migrant Tour da fare, un sabato particolare. Grazie, ottima segnalazione. Adesso in Aeropostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Aeropostit. Going Abroad, un'app per chi viaggia. Siete in viaggio e vi chiedete qual è il limite di velocità nelle autostrade spagnole? Oppure se è obbligatorio il casco se si va in bicicletta in Svezia? Non cercate più su internet, guardate sulla nuova app per smartphone elaborata dalla Commissione Europea, che contiene tutti i regolamenti per i viaggiatori su strada nei paesi dell'Unione Europea. Trovate tutto, dal limite della quantità di alcol assunta per chi guida al comportamento ai semafori. Cercate sul vostro store online Going Abroad, oppure guardate la versione online su ec.europa.eu/transport/roadsafety/going abroad. L'altra Europa. A very warm welcome. We are witnesses to an historic moment for data protection. We need to make sure that we get data protection right. And I also believe that EDPS can help us get it right. We simply can't do this job without grit in the oyster. Quello che state ascoltando è un video di presentazione della strategia europea per la protezione dei dati. Si parla di privacy e esiste questo organo che è stato istituito per garantire che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto dei cittadini al trattamento riservato dei dati personali. È un argomento importantissimo, un argomento che fa parte della nostra quotidianità. E uno degli aspetti più importanti è quello ovviamente legato alla trasparenza. E proprio a riguardo è stata presentata in questi giorni una app per confrontare sui telefonini e i tablet il lavoro delle istituzioni europee sul regolamento generale per la protezione dei dati, di cui poi si sa poco perché nessuno di fatto va a leggere quelle righe piccolissime, si clicca accetto, si clicca sì, si clicca ok, senza sapere mai per davvero a cosa si sta acconsentendo. Per scoprire bene che cos'è questa app abbiamo il piacere di ospitare qua con noi oggi all'Altra Europa Giovanni Buttarelli, garante europeo per la privacy. Buongiorno Buttarelli, benvenuto. Buona giornata a tutti. È un argomento tosto quello della privacy, è facile comunicare, è facile spiegare ai cittadini l'importanza di questa tematica? È facile comunicare, ma non è detto che si è capiti e quindi abbiamo scelto una soluzione più dinamica, sì, che permette di arrivare immediatamente al dettaglio di ciò che ci riguarderà nella vita di tutti i giorni. L'Europa sta per varare una legge unica che sostituirà quella in vigore nei 28 paesi, sì, e quindi è un qualcosa che al quale noi vogliamo che tutti partecipino con più attenzione per capire qual è la varietà delle opzioni in gioco e come queste avranno influenza nella nostra vita di tutti i giorni come consumatori, utenti, pazienti, diciamo persone che devono difendersi in giudizio, lavoratori, pensionati e così via. Quindi un'app, quindi un dispositivo smart proprio per entrare nelle tasche di tutti i cittadini e per offrire anche ai cittadini consapevolezza, immagino, dei propri diritti riguardanti la privacy. E parla molto al futuro, nel senso che questa app è pensata per far capire quello che sta accadendo, ma soprattutto quello che accadrà. Sarebbe stato impossibile avvicinare gli utenti a 560 pagine di testo che vanno lette in un modo più sintetico e più dinamico, e quindi anziché adottare un'opinione lunga noi ci siamo tenuti in 6 pagine con un linguaggio molto semplice che abbiamo studiato proprio per un utente medio, e poi cerchiamo di indirizzarlo su ciò che più gli interessa, ma cerchiamo anche di rendere trasparente questo processo che si sta svolgendo in queste, diciamo, nell'ultimo miglio fino a Natale e che avrà ripercussioni nel lungo periodo. Non è più soltanto la privacy nel senso di riservatezza, di sfera di confidenzialità e di sfera intima, la protezione dei dati ormai riguarda più ampiamente chi fa cosa, per quali scopi, per quanto tempo, il nostro diritto anche alla disponibilità delle informazioni perché un giorno siano presenti quando servono per scopi utili a nostro favore, il fenomeno del big data e dell'internet delle cose che si sta affacciando in modo prorompente sul mercato, la nostra vita sui social networks, l'equilibrio tra diritto all'informazione e tutela dell'immagine e della dignità per quanto riguarda i blog, i giornali e molte altre pubblicazioni. Buttarelli, le faccio una domanda usando una parola forte e estremizzo un po', però chi è il grande nemico del garante per la privacy? È la burocrazia, è la non consapevolezza, è la modernità comunque che corre, quindi è anche difficile seguirla? No, è la sottovalutazione. Nella modernità è proprio questo la scommessa che noi vogliamo fare. Passerò 2 settimane negli Stati Uniti a settembre per incontrare nella Silicon Valley quelli che stanno preparando il nostro futuro, il futuro di dopodomani, nel senso che dobbiamo saper cogliere i benefici in larga scala dello sviluppo delle nuove tecnologie, che però non devono dettare una soluzione, devono porre di più l'uomo, la sua dignità al centro dello sviluppo. Non dobbiamo essere trattate come bestie passive, utenti, consumatori, sottoscrittori che forniscono necessariamente con un sì o no non meditato tutta la nostra vita, le nostre preferenze, la nostra dove siamo collocati, tutte le nostre scelte e abitudini. Saremo sempre più profilati nel fenomeno del big data, riceveremo meno pubblicità visibile, ma si farà molto più business sulla nostra persona e si costruirà soprattutto una società del futuro, di servizi, di prodotti, di preferenze, di priorità nel modo in cui noi accederemo alla società dell'informazione. Tutto questo non può essere fatto diciamo alle spalle dei cittadini, presentandoci semplicemente la bellezza di un telefono, di un tablet, ma senza farci capire cosa c'è dietro. Certo, e tutto ciò non può neanche essere fatto nazione per nazione, per questo entra in gioco l'Europa. Lei usa i social network? WhatsApp certamente, altri in maniera più prudente, ma comunque la mia struttura lo fa istituzionalmente, non abbiamo nessun problema a interagire con gli altri, anche se i giganti dei social network, WhatsApp e diciamo Facebook ed altri, sono al centro diciamo delle nostre azioni, perché settimanalmente dobbiamo tirare le orecchie. Direi che prudenza in questo caso è davvero la parola chiave. E il sito è il vostro, da dove si potrà scaricare l'app, immagino secure.edps.europa.eu. Grazie davvero Buttarelli, buon lavoro. Buon lavoro a tutti, grazie. Europost-it. Access City Award. La Commissione europea ha ufficialmente aperto il bando per partecipare alla sesta edizione dell'Access City Award, il premio europeo per le città accessibili. Saranno premiate le città che hanno promosso iniziative volte a migliorare l'accessibilità agli spazi urbani per le persone con disabilità o anziane, in particolare nei contesti di ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Per partecipare al bando, le città dovranno avere una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e presentare le candidature, in inglese, francese o tedesco, entro il 10 settembre. Tutti i dettagli sul sito accesscityaward.eu. Most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun. Raccontare le esperienze di una generazione, questo è il sottotitolo ma è anche la mission di una startup giornalistica lanciata 6 mesi fa da 3 giornalisti freelance, si chiama Precarious Europe, già nel nome dice tutto, l'Europa del precariato, che però vuol dire appunto narrare i giovani, narrare nuove forme di occupazione e di disoccupazione, narrare comunque una società nuova, diversa, complessa, che va anche interpretata. Diamo il benvenuto a Jamie McKay, che è fondatore della startup. Ciao Jamie, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, intanto chi siete? Allora, come hai detto tu un po', Precarious Europe è un progetto giornalistico che ho lanciato ormai infatti 9 mesi fa, con due amici, con lo scopo insomma di raccontare le esperienze della nostra generazione, che sarebbe i giovani sotto i 30 anni. Abbiamo un sito dove pubblichiamo articoli e podcast, purtroppo per adesso solo in inglese, scritto dai giovani da tutta Europa, e parliamo del lavoro, dell'alloggiamento, della disoccupazione, emigrazione, un po' di tutto. Ma come mai l'esigenza di raccontare questa generazione non è ben raccontata, ben rappresentata dai media tradizionali? No, infatti, insomma, l'idea è venuta fuori dalle nostre esperienze personali, delle limitazioni dei media tradizionali, diciamo. Almeno in Inghilterra sarebbe stato impossibile fare un progetto del genere se non fossimo indipendenti, diciamo. Quando Precarious Europe è nato, tutti e tre di noi lavoravamo a Londra, scrivevamo articoli sulla politica europea e i giovani per alcuni giornali nazionali, ma tante cose non andavano, diciamo. Molte di queste pubblicazioni non ci pagavano per lavoro e la qualità del dibattito troppo spesso ci sembrava molto basso. Uh-huh. E l'Europa come collante di questa generazione, comunque il filo conduttore nel bene e nel male che raccoglie la storia e le storie a cui date voce? Sì, allora ci sono tanti diversi voci, no? Perché ovviamente l'esperienza della precarietà significa qualcosa di diverso in Germania, per esempio, rispetto alla Grecia, ma senza dubbi, almeno dall'inizio della crisi, ci sono aspetti di questo concetto che si può vedere in tutta Europa, dalla Scozia alla Sicilia, diciamo. Quindi, per me, allora, la precarietà nel campo politico ha una realtà obiettiva collegata alla storia post-industriale dell'Europa e l'esperienza concreta di avere meno diritti come una cittadina rispetto alla generazione precedente. Avete una sede? Avete una redazione? No, infatti questa è una cosa un po' strana, siamo basati un po' in tutta Europa. Le mie colleghe vivono in Grecia, ad Atena, io sono basato a Firenze, quindi siamo un po'... siamo veramente transeuropei, diciamo. Jamie, si chiama L'Altra Europa questo programma, quindi raccontare l'Europa da tanti punti di vista diversi. Sì. Qual è la vostra Europa? Qual è l'Europa che vi piace? È una bella domanda. Senti, io direi che siamo abituati a pensare della precarietà come se fosse un fenomeno individuale, ma io credo che abbia anche dei dimensioni storici e collettivi. Quando si legge tutte queste storie, come pubblichiamo noi, si rende conto che alla fine la maggior parte delle persone, sinistra, destra, residenti, migranti, vogliono e servono le stesse cose: un tetto, uno stipendio, una vita dignitosa, diciamo. Secondo me qualsiasi altra Europa dovrebbe impegnarsi a garantire queste cose alle fine modeste per tutti e tutte. Precarioseurope.com, questo è il sito. Grazie davvero Jamie, complimenti a te, grazie. Complimenti ai tuoi collaboratori, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con L'Altra Europa. Noi ci siamo, pronti a condividere con voi anche quest'estate tante buone notizie. Parliamo di tutto, dalla Grecia di Tsipras alla campagna di De Luca. In stile si può fare, saremo in compagnia dei nostri eroi quotidiani, inventori, cervelli che non fuggono, sindaci virtuosi, contadini del terzo millennio. In pratica, aspettiamo solo voi. Si può fare l'attualità anche d'estate con Alessio Maurizi, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio 24. L'Altra Europa. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre L'Altra Europa. Radio24.it per poter riascoltare o scaricare la puntata. @ Federico Taddia invece per trovarci su Facebook e Twitter, dove mettiamo minuto per minuto i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ci piace raccontare anche l'Europa che guarda fuori dall'Europa, come questo progetto finanziato dall'Unione Europea e che vede protagoniste delle ragazze etiope, che sono state narrate da un progetto del giornalista Alessandro Giglioli. Le ragazze di Vuciale è il titolo di questo blog ospitato sul blog dell'Espresso e sulle pagine Facebook. Un lungo viaggio per raccontare storie e volti. Ciao Alessandro, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Il progetto ovviamente non è solo mio, è soprattutto del CIFA, che è questa ONG di Torino, a cui io ho volentieri dato voce. Tu hai gentilmente parlato del sito Le Ragazze di Vuciale, e segnalo che in edicola proprio questi giorni c'è l'Espresso con un reportage, il Presso Giornale per cui lavoro, che per il quale ho fatto un reportage sul cartaceo molto ampio su queste su queste donne etiopi, sulle ragazze africane e anche sul progetto di Vucciale a cui tu hai fatto riferimento. Chi sono queste donne e perché avete scelto di farle conoscere? Perché è una realtà molto interessante, sia in generale quella delle donne etiopi, che sono la vera spina dorsale, la vera colonna portante di questo paese. Sono loro che mandano avanti questo immenso paese con quasi 100 milioni di abitanti, sono loro che puliscono la città al mattino, le spazzine sono donne, sono loro che spesso coltivano i campi o che fanno le pastore, che portano le greggi, sono loro che addirittura lavorano nei cantieri, c'è un grosso boom edilizio ad Addis Abeba, è pieno di donne che lavorano nei cantieri, sono loro che con i loro soldi, con le loro rimesse dai paesi in cui emigrano, consentono all'economia etiope questa crescita attuale, perché c'è una grandissima percentuale di donne che emigrano, vanno specialmente in Arabia Saudita, in Kuwait, adesso anche in Libano, e con le loro rimesse consentono molte famiglie del paese di vivere. E poi sono, vabbè, noi lo sappiamo fin dalla sventuratissima avventura coloniale italiana, che le donne etiopi sono belle, ma non sono solo belle, sono anche molto fiere, molto forti, ma hanno molto di più dei loro maschi, se si può dire. E poi ci siamo interessati di questo anche perché appunto il CIFA, questa organizzazione con la quale abbiamo messo in piedi questo progetto editoriale cartaceo via internet, poi ci sarà anche un cortometraggio, il CIFA si occupa dell'istruzione superiore di una trentina di ragazze nel nord dell'Etiopia, che è a Vucciale, questo paese noto ad alcuni storici perché lì fu firmato un trattato fra Italia ed Etiopia ai tempi della prima guerra d'Abissinia, che prende il nome di trattato di Uccialli, noi l'abbiamo italianizzato così, in realtà è un poco più di un paesone, e il CIFA consente a queste una trentina di ragazze di fare la scuola superiore, sembra una sciocchezza, ma è fondamentale. Sono ragazze che vengono dai villaggi di montagna, villaggi piccolissimi, che grazie a questo progetto evitano i due destini a cui sarebbero altrimenti costrette, cioè o emigrare appunto a fare le cameriere in Arabia Saudita o rimanere tutta la vita a portare le capre in giro per le montagne. In questo modo danno loro una possibilità di emancipazione. Un'altra possibilità. Tra l'altro queste che chiamiamo donne, che sono la colonna portante di questa nazione, di fatto sono adolescenti, quelle che avete fotografato e narrato, sono tutte ragazze tra i 16 e i 20 anni, molto, molto giovani. Alessandro, ti faccio una domanda che ci riporta un po' anche nel nostro programma. Dov'è l'Europa lì? O che cosa rappresenta per loro l'Europa? Ma guarda, loro sentono molto dal punto di vista economico l'influenza cinese, perché la Cina è andata lì a investire tantissimo, comprarsi le terre e investire anche nelle infrastrutture. Sentono un legame con l'Europa che è soprattutto di tipo culturale, perché sai che quando tu parli con un etiope spesso e dici vado, che ne so, in Sudan o in Kenya, ti dice ah, vai in Africa, cioè loro non si sentono completamente africani, perché loro sentono dal punto di vista culturale il legame con il cristianesimo, ad esempio, sappiamo che sono copti, non hanno un cattivo ricordo degli italiani, nonostante alcune terrificanti cose che gli italiani hanno fatto lì, non hanno un cattivo rapporto con noi, e alcuni anziani parlano ancora un po' di italiani, c'è uno Juventus Club ad Addis Abeba, che è uno dei luoghi dove una comunità italiana ancora molto numerosa si ritrova, e hanno alcuni di loro emigrano verso l'Europa, e attenzione, loro sono soprattutto un luogo di passaggio dell'emigrazione verso l'Europa, perché quando noi vediamo questi profughi che vengono dall'Eritrea e dalla Somalia, sì, sono arrivati in Libia attraverso il Sudan e prima ancora attraverso l'Etiopia, loro si sentono, verso di noi sentono un rapporto verso l'Europa, gli europei sentono un rapporto da un lato di ammirazione e di emulazione, d'altro lato però c'è un fortissimo orgoglio nazionale, perché loro si sentono un paese che non è completamente africano e ovviamente però non è europeo, non è, anche se sono cristiani non sono europei, no? Certo, orgoglio che tra l'altro traspare con tutta la sua forza e la sua bellezza negli occhi di queste ragazze che avete fotografato e che avete raccontato. Grazie davvero Alessandro, complimenti per un bellissimo lavoro. Grazie a tutti. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Europost-it. Tirocini al Parlamento Europeo. Sognate di diventare traduttori? Vi piacerebbe svolgere un tirocinio di 3 mesi all'estero? Il Parlamento europeo offre tirocini retribuiti a traduttori titolari di un diploma di laurea, con l'obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'Unione europea. I tirocini per traduttori si svolgono in Lussemburgo presso la Direzione Generale per la Traduzione e l'Interpretariato. Troverete tutte le informazioni sul sito del Parlamento europeo europarl.europa.eu nella sezione Lavorare al Parlamento. Le candidature devono essere inviate entro il 15 maggio. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad. Cambiamo completamente argomento per parlare dell'Europa che sa anche sorprendere, che poi è l'Europa che a volte ci piace scoprire e che ci piace raccontare. Il 40% dell'Unione Europea è ricoperta da boschi. Già questo uno non ci pensa, ma questa anche è l'Europa. E proprio per questo è stato sviluppato un progetto che cerca di dare un valore al valore non sfruttato delle foreste europee. Si parla di tutto ciò che non è legno. Il progetto si chiama Star Tree e con noi c'è Enrico Vidale, ricercatore dell'Università di Padova. Ciao Enrico, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno, buongiorno. È l'Europa del bosco e del sottobosco quella a cui pensate voi, quella per la quale lavorate? Allora sì, è un'Europa un po' nascosta, un'Europa che non compare in nessuna statistica formale, diciamo così, se non in qualche rara statistica di commercio estero. Uh-huh. È un'Europa che si è praticamente dimenticata di un settore che contribuisce per quasi 4 miliardi di dollari di commercio internazionale, quindi non è trascurabile. È un'Europa che socialmente si è dimenticata del 10-15% della popolazione del sud Europa o del nord Europa, quasi del 50%, che è legata a queste attività. È un'Europa che si è dimenticata di un pezzo di foresta, si può dire, perché la foresta non produce solo legno, ma produce molto, ma molto, ma molto di più. Ecco, e che cosa? Questo progetto che mi sembra collega, coinvolge 12 paesi, quindi anche tante nazioni, che cerca di sfruttare quali risorse? Allora, stiamo parlando di tutto ciò che deriva dal bosco, ma non è costituito da legno. Quindi funghi, tartufi, bacche, resine, cortecce, aghi, erbe aromatiche, ovvero tutto ciò che i nostri cari nonni andavano in bosco a raccogliere per sfamarsi un tempo. Oggi, se lei immagina l'Italia, sì, delle 10 categorie di associazione che esistono in Italia, per esempio l'associazione dei DOP del parmigiano e così via, o che so io, dei vini, bene, abbiamo tra le top 10 al quinto posto le categorie che riguardano i prodotti del bosco come la castagna, al settimo posto abbiamo le associazioni che sono relative al tartufo, quindi vuol dire che anche come immagine del nostro paese, come immagine anche della cultura enogastronomica europea, sono molto importanti, ma sono anche soprattutto importanti per quel livello associativo e aggregativo che sono in grado di fare. Per esempio, cito un esempio, una delle associazioni più grandi che abbiamo in Italia, l'Associazione Micologica Bresadola, consta di quasi 15.000 persone che vanno in cerca di funghi e studiano funghi in tutto il panorama nazionale, ma soprattutto sono anche in grado di fornire molta assistenza, molta informazione a tutte le persone che si recano in bosco e vanno a cercare in questo caso funghi. Mm-hmm. Poi non dimentichiamo per esempio che in Italia, l'Italia è uno dei più grandi trasformatori di prodotti del bosco che esiste, non dico solo in Europa, ma al mondo. Si pensi che ci sono, possiamo fare il nome di alcune aziende o non si può? Ma ecco, anche diciamo, no, però insomma, diciamo ci le sono grossissime aziende italiane che hanno esportato il tartufo, il fungo, che hanno esportato i pinoli, che hanno esportato tutti i prodotti, diremmo, non forestali, non legnosi, sì. Prodotti, si chiamano tecnicamente prodotti forestali non legnosi, in giro per il mondo, ma esportando anche una cultura legata a queste. Se pensi il pesto senza pinoli, adesso succede già però, purtroppo, oppure che so io, il fungo di Borgo Taro, che è stato uno dei funghi che tradizionalmente è stato più consumato in tutto il mondo, riguarda il porcino per esempio. Uh-huh. Ecco, stiamo parlando di tutti questi prodotti che hanno fatto, diremmo, un po' da trade union di una categoria che non è riconosciuta, per esempio... Enrico, scusa, ti chiedo un minuto di pazienza, è il tempo del traffico, poi torniamo immediatamente da te per capire anche come l'università e la ricerca sta entrando e aiutando questo progetto. L'altra Europa. Eccoci qua, ancora l'altra Europa, ancora con Enrico Vidale, ricercatore dell'Università di Padova. Stiamo scoprendo questo particolare progetto Star 3. Enrico, l'Università di Padova cosa segue in particolare? Allora, il progetto è un progetto molto complesso, è un progetto da 7 milioni e mezzo di euro, dove l'Università di Padova si colloca proprio al centro, ovvero nell'attività di ricerca economica. Il progetto è diviso in 5 grossi filoni, uno di coordinazione dati, uno relativo alla ricerca in campo, quindi alla selvicoltura, come si gestisce il bosco, uno legato ovviamente all'economia e alle piccole e medie imprese che fa l'Università di Padova, una branca legata alle leggi e una legata all'innovazione. L'Università di Padova ha cercato di trovare una metodologia di analisi delle piccole e medie imprese e di come si può fare impresa in questo settore dimenticato in 12 nazioni con 14 partner, o meglio in realtà sono 14 regioni d'Europa con 125 partner, però in realtà noi abbiamo un'unica mission: creare un modello, un report, uno strumento, diciamo così, che dia la possibilità a chi vuole fare impresa in questo settore di iniziare con delle basi informative solide, sia dal punto di vista economico, quindi di collocazione nel mercato, di dove e quali prodotti può commercializzare, ma soprattutto di come anche legalmente e burocraticamente può attivare un'attività in questo settore. Certo, quindi dare supporto, dare informazioni, aiutare anche i giovani. Anche qui si parla di startup, anche qui si parla di nuove imprese, anche qui si parla di persone che scelgono magari di non abbandonare zone montane o zone rurali, ma lì rimanere e lì creare nuovi indotti. Enrico, vai a funghi adesso? Cioè, hai imparato ad andare a funghi? Diremmo che la stagione non promette molto bene, però dai, diciamo che io ci spererei. Diremo che in questo progetto abbiamo un partner un po' speciale che proprio nasce qui in Italia, però si è trasferito in Finlandia, che è una persona di importanza istituzionale, perché è il console italiano per la Finlandia, che si è creato un'azienda proprio sui funghi porcini ed è la seconda, penso, azienda più grande al mondo che commercializza porcini raccolti dalle popolazioni finlandesi per venderle proprio nel mercato di Milano. Ecco, questa è l'Europa. Starlinieta3.eu. Grazie Enrico, buon lavoro, buon sabato. Ciao ciao. Europost-it. Horizon 2020, candidature per esperti. All'interno del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 c'è posto anche per candidature individuali per esperti di supporto alla realizzazione del programma. C'è infatti un invito ufficiale a presentare candidature individuali per la creazione di una base dati di esperti indipendenti che possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello svolgimento di compiti legati ad Horizon Orizzonte 2020. L'invito è destinato a singoli esperti e anche a organizzazioni competenti, tra cui agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il Participant Portal ec.europa.eu/research/participants/portal. Lì trovate anche tutte le informazioni sui profili ricercati. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking. Due paia di pantaloni, quattro magliette, due paia di scarpe, una ai piedi e una di scorta, tenda, sacapelle, fornellino, lampade, luci, pennellino solare da attaccare allo zaino. Questa è la dotazione per affrontare 15.000 chilometri. Tanti saranno infatti i chilometri che questa coppia farà per valutare se l'Europa può essere un palco, uno spazio dove trovare nuove opportunità. Tutto ciò accadrà dal 19 agosto, quando Francesca Ciullini e Stefano Carmanini si metteranno in cammino alla ricerca di un futuro possibile. Ciao Francesca, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Cosa andate a cercare? Tante cose. Andiamo a cercare prima di tutto un'esperienza di viaggio, vedere tantissime cose nuove, tantissime cose non abbiamo mai visto, e sicuramente anche una speranza, o comunque diamo un'occhiata in giro per vedere cosa c'è al di fuori dell'Italia concretamente. E voi siete due trentenni, siete sposati, se non erro, tuo Stefano forse un cassa integrato precario, tu invece che professione, esatto. Tu cosa fai o cosa facevi? Io ho lavorato fino ad ora in un supermercato, ho preso un periodo di aspettativa per vedere un po', insomma il mio lavoro è abbastanza stabile e sicuro fortunatamente, quindi prima di buttare tutto alle ortiche ho avuto l'opportunità di prendere questa aspettativa e l'ho sfruttata. Ma l'idea è quella di andare a sondare, cioè quella di mettere la testa fuori dalla finestra, è quello di vedere, cioè vi sentite già cervelli in fuga, siete già in fuga o state andando a crearvi possibili spazi dove andare a piantare le tende forse più definitivamente? Sì, un po' diciamo siamo già in fuga e ora non sappiamo bene che cosa ci aspetta là fuori. Sarà una scoperta giornaliera e vogliamo vedere se è fattibile trovare veramente qualcosa da poterci cambiare la vita, oppure se in realtà la nostra nicchiettina in Italia va bene così. Walkineurope.it, il sito dove racconterete giorno per giorno questo viaggio, perché insomma sarà un'esperienza social, un'esperienza condivisa, un'esperienza da divulgare. Ma per voi in questo caso l'Europa che cos'è? Nel senso, come vi avvicinate, come varcate il confine? Come una... comunque un insieme amico o comunque un qualcosa di ostico dove cercare di penetrare? No, io la vedo come un qualcosa di amico, qualcosa di più grande del nostro giardino di casa da esplorare, ma comunque in senso positivo. Spero di trovare solo un po' più di appoggio, diciamo, ecco. Vi siete dati... porta più aperta. Vi siete dati un lasso di tempo? Indicativamente un paio d'anni ci vorrebbero per finire tutto il giro a piedi. Ok. Ma e se dopo qualche settimana già trovate una situazione che invece potrebbe piacervi o trovate l'opportunità che state cercando, avete messo già in conto anche comunque di fermarvi? O... Sì, c'è anche questa possibilità, sì. Uh-huh. Se troviamo la chance della vita siamo disposti anche a fermarci. È stata Francesca a convincere Stefano o è stato Stefano a convincere Francesca? Sono stata io a convincere lui. Ah sì? Sì. Uh-huh. E io quella un po' più scapestrata. Ok, e qual è stata la molla decisiva, la molla che ha fatto cambiare idea a Stefano, che l'ha convinto a partire? La sua situazione precaria lavorativa ha influito molto. Uh-huh. E poi lui ha la teoria del perché no, ovvero del chiedersi se qualcosa vale la pena farlo oppure no, se non c'è niente, che nessuna motivazione valida per dire di no. Accettiamo. Ok, e così nasce walkineurope.it, questo è il sito, appunto, perché no farsi un giro in Europa e vedere se lì può esserci un altro futuro. In bocca al lupo, Francesca! Grazie. Buona camminata, ciao. Grazie mille, ciao. E questo grazie va a tutti voi come sempre per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento è a sabato prossimo e sarà la prima di 4 puntate speciali dove andremo un po' a sviscerare quelle che riteniamo colonne portanti della nostra Europa, quindi l'innovazione, quindi il verde, la cultura e l'inclusione sociale. Un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti, Silvia Righini, Pietro Lacorte, oggi alla parte tecnica. L'appuntamento con me invece è domani con Terra in Vista, come sempre alle 9, con l'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.